Cercava solo di essere sincero, fote chi pensava come fotterti chi fote, ma non gliene fote chi non mi foti più, foti di chi fote chi. Cercava solo di essere sincero, fote chi pensava come fotterti chi fote, ma non gliene fote chi non mi foti più, foti di chi fote la sua mente distruggendo il suo futuro. Fote chi non c'entra proprio niente, come chi fote la sua schiena mentre ti ha la pancia piena. Fote chi mangia malapena e ancora meno dorme, chi lotta contro la sorte che ha conti fatti. Fote chi, chi non è abbastanza forte. Fote chi crede che Dio lo salvi, quindi fote in mezzo ai salmi, come chi con le preghiere. Fote chi le popolazioni con discorsi molto accattivanti, demagogici, fatti di promesse e di speranze negli spot ipocriti, fatti da chi studia come fottere la gente. Fote chi tira solo a campare, oggi che costa oro pure il pane, l'inflazione. Fote chi più lavora e più c'ha fame, e chi fote chi quando non c'è più da mangiare, si fote la catena alimentare e il super enalotto. Fote chi prega la dea bendata, e quella fote chi casomai un giorno gli tocchi, lo fote anche la maga coi tarocchi. Me un foti foti qui è il paese dei balocchi, che fote chi c'ha troppo affuta, chi fote chi è una fottuta combutta. Chi fote chi? Chi fote chi? Chi fote chi? Cercava solo di essere sincero, fote chi? Pensava come fotterti chi? Fote ma non gliene fote chi? Non mi foti più, foti di chi fote chi? Cercava solo di essere sincero, fote chi? Pensava come fotterti chi? Fote ma non gliene fote chi? Non mi foti più, foti di.